Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar! Ed eccoci in questo 25 aprile, carissimo Alessandro! In diretta! In diretta, sempre in diretta, in diretta, in diretta, in diretta. Giornata della liberazione, chissà se Salvini si libererà dalla Pascale, ma insomma. No, vabbè, adesso non scambiamo feste serie e sangue e lutti e sacrifici di tanti italiani con la pessima politica italiana, però insomma, consentiteci un'ironia. Allora, i santi del giorno, ovviamente oggi San Marco Evangelista, quindi un grandissimo santo, patrono di Venezia, tra l'altro, e tantissimi santi dai nomi singolarmente diffusi nella popolazione italiana, tipo Febadio, Clarenzio, Pasicrate, Erminio, qualcuno qui ce n'è, Aniano, eccetera eccetera. Tra le tantissime categorie di cui è patrono San Marco, i notai, gli ottici, i vetrai, i farmacisti, i pittori, i conciatori, interpreti, insomma San Marco gettonatissimo. Tra i nati oggi Al Pacino e la Fitzgerald, e però sentite, io posso dire solo una cosa, ieri grandissimo Valentino Rossi, grandissimo. Tu sei uno di quelli appassionati. Ma io penso che l'Italia creda di avere quattro ruote, ma quando va bene a due, quindi per questo sono un tifoso motociclista. Vincere in Spagna per il doctor di fronte ai due spagnoli, secondo me è grande. Beh, io grande, sconto grande, però grande questo cosa. Difetto, non ho mai avuto passione per io quando ero giovane mi piacevano i motori, per la moto, e quindi sai come, ormai sono vecchio, non però, ci posso andare. Grande Valentino questo. No, ma ieri c'era proprio tutto questo sottile di sì, fronte ai Spagna, due spagnoletti. Certo, certo, ricordiamo il finale dell'anno scorso. Esatto. Questo anche un profano come me lo però, ricordo. Insomma, lo metto in un angolo perché io capisco che di fronte a centrodestra, insomma, Salvini, la Pascale, cose serie quelle. Ma guarda che Salvini, allora, la Pascale ha dato a Salvini del troglodita, però oggi Salvini sul Corriere della Sera, in questa intervista, caro Oscar, nel rispondere alla Pascale, in realtà dice una cosa contro la Lega, perché dice: ah, la vecchia Lega. Esatto, anch'io ricordo quei tempi della Lega in cui decidevano mogli e figli, moglie e figli. E figli, cioè Bossi, sì, dai, insomma il circo magico bossiano, come dire, insomma Berlusconi è, no, come dire, nella senilità declinante ci siamo passati prima noi, adesso tocca a Berlusconi. Questo è ovviamente, sì, certo, un Salvini che dice si tengano Bertolaso, i suoi rom e i suoi topi. Cioè mia, è ragazzi, sempre un, cioè, per così dire. Boh, vedremo quanto dura ancora questa specie di declino, di autocommedia del declino del centrodestra. Però io, Oscar, pensavo davvero che alla fine Bertolaso si ritirasse. Per carità, guardate che le liste sono 6 maggio, cioè 6 fino, maggio, fino a questo momento. Magari non c'è neanche un candidato Bertolaso ufficiale. Magari no, Bertolaso. Ne candidano due, anche un fratello. No, nel senso, però ormai sembra che tenga duro su Bertolaso o Berlusconi. No? Sì, però come sei saggio, hai appena ammonito. Aspettiamo un secondo dopo la mezzanotte dell'ultimo. Dici? Sì, guarda. Dice che in realtà i giochi non sono fatti. Ma ancora. Chi ne sai, Berlusconi come la prende, dai. Magari vende Bacca. Beh, ti ringrazio, su questo è abbastanza certo, siccome Bacca è il vice capocannoniere e litiga con Balotelli che segna raffiche di gol, vendiamo Bacca e teniamo Balotelli. E a quel punto mettiamo invece Bertolaso in squadra, che ne puoi sapere che come non sembrerebbe bene come allenatore Bertolaso come allenatore. Beh, risolve problemi. Oggi ancora Berlusconi scrive al giornale dicendo, esatto, che il miglior sindaco che può avere Roma è Bertolaso. È Bertolaso. E Bertolaso, e per cui vedremo. Comunque, caro Oscar, non c'è solo questo, parleremo no, di che cosa? No. C'è lo scontro, ma no, non so se si può dire, perché Renzi oggi dice non attrito. C'è attrito. Vogliamo essere più modesti. So, Renzi parla a Repubblica e dice non c'è alcuno scontro tra magistratura con e Toni politica. Hai visto come tutto il resto è noia, i politici aspettano le sentenze, tutto il resto è noia, come canterebbe Califano. Però sì, fa questa intervista a Repubblica per rispondere un po' alle accuse da Vigo, le accuse che oggi fa anche Franco Roberti, che anche fa anche Franco Roberti sul Fatto Quotidiano. E devo dire la verità, io tra le tante voci che si sono levate mi ha colpito molto ieri, molto seriamente, devo dire, l'intervista di Gratteri, Franco Gratteri, cioè di quello che doveva fare il ministro, poi non ha fatto il ministro nella travagliata composizione del governo, e che però poi Renzi ha chiamato a guidare una commissione che ha dato moltissimi consigli per la riforma della giustizia, e sentire da Gratteri, e non c'era polemica in questo, ma io sto vedendo che però il governo ha preso il 5% di quello che abbiamo scritto, mi ha molto colpito. Beh, infatti stavamo pensando di chiamarlo magari per domani, il magistrato antimafia, perché non c'era polemica generalizzante sui politici, c'erano cose piccanti. No, ma poi devo dire che Nicola Gratteri dà anche delle proposte. Esatto. Per esempio, oggi Roberti ne dice alcune concrete. Una, secondo me, è interessante: che la prescrizione non dovrebbe decorrere dal momento in cui si commette l'eventuale reato su cui si indaga, ma dal momento in cui il magistrato viene a saperlo. E non so, magari o rinvia giudizio, o c'è il rinvio a giudizio, o nel momento in cui parte l'indagine. Cioè, perché altrimenti, dice, il magistrato viene a scoprire un eventuale reato 2 anni dopo che il reato è stato commesso, questi 2 anni non dovrebbero valere per il conto della prescrizione, secondo Roberti. Non so che ne di pensi. Sicuro la prescrizione sarà uno dei temi più tra virgolette roventi, penso. Quello è... perché dice il magistrato lo sa dal giorno X, e così invece colui che potrebbe aver commesso un reato gode già, per esempio, di 2 anni di prescrizione, ma sono questi 2 anni nei quali il magistrato non ha fatto nulla, non sapeva nulla. Purtroppo il tema della prescrizione è diventato praticamente irresolubile senza scontri, cioè la prescrizione nasce negli ordinamenti in realtà davvero per tutelare la possibilità di un cittadino indagato nei confronti della giustizia, certo. Però per come è diventata, di fronte ad alcuni reati soprattutto, è diventata una cosa che non si riesce più ad affrontare con il giusto equilibrio, secondo me. Quindi i magistrati dicono quello che volete, però non ci chiedete poi di fare sentenze. Quando poi, ecco. No, perché se tu hai un buon avvocato, soprattutto quei reati, immagino che pensi ai reati, quelli della pubblica amministrazione, no, i colletti bianchi, hai dei buoni avvocati, arrivi alla prescrizione. Di particolare allarme sociale, si direbbe, insomma, no. Ovvio che... Naturalmente però questa richiesta confligge con la classica impostazione liberale per cui nasce la prescrizione, perché se tu avessi qui adesso l'avvocato Migliucci, presidente della Camera Penale, ti direbbe, ma insomma, mettiamoci d'accordo, la prescrizione non nasce per tutelare le esigenze dello Stato, nasce per tutelare le esigenze ovviamente dell'indagato. Vedremo se col governo Renzi ci evitano il gran caos della passione. Certo è che da Vigo ci ha messo tutta l'artiglieria sopra, però hai visto che anche i suoi colleghi, la stessa NM, insomma, lo hanno messo in condizione di dover fare una specie di mezza marcia indietro, come dire, un po' esagerato. Un po' esagerato, dice, ma sì, io poi non amo lo sport nazionale tipico italiano adesso di dire bisogna tifare pro o contro Davigo, cioè bisogna schierarsi, no? Dopo Davigo, il giorno dopo c'era Cantone, adesso c'è Roberti che dice al Fatto Quotidiano Davigo ha ragione. Insomma, ci si schiera così, ragioni e torti. Ti posso far ascoltare Salvini che canta? Ma no. Così mi dici se caccia la Pascale, così vediamo. Canta. Guarda, tu lo vedevi Mila e Shiro? C'è una nuova giocatrice. Mila, il suo nome è talento ha per tre. Ma tra il pubblico lei secondo sa, me sono i geni di Radio Rock che fanno cantare i politici. Beh, e devo dire che batte forte, però forte, cioè, qualche stonatura, ma però segue la melodia, cioè come... Shiro, due cuori nella pallavolo. Shiro, evidentemente amore a prima vista è caduta un po' di... Vabbè, un po' milanese. Questo è Salvini. Però era appassionato davvero di questa serie. Mila e Shiro, sì, io non vedevo altro. Non vedevi altro? No, vedevo io... non so, Dolce Remy, ecco. Candy, Goldrake, Gigro Bodacciaio. Fortunati voi, avevate delle mamme che vi facevano vedere queste cose. Ma era vietato a casa tua, niente. Assolutamente. So che adesso a dirlo uno sembra che... Però era così, cioè anche io... Heidi! No. neanche guarda, Heidi. Io per caso vedevo Le avventure di Gustavo, tristissimo che cartone in bianco e nero, cecoslovacco, della Cecoslovacchia comunista, perché lo mandavano il sabato, me lo ricordo, me lo mandavano il sabato alle 13 per la telegiornata. Questa è l'unica cosa che passava alla censura materna. Le avventure di Gustavo, corazzata di per chi se lo ricordasse, Le avventure di Gustavo erano, potete immaginare, cartoni cecoslovacchi comunisti, tristissimi. Cioè, per cui io e mio fratello, mentre risuonava l'ora delle forchette, non si sentiva anima mia né alcuna risata. Era proprio una cosa fantozziana per me. Comunque, caro Oscar, noi oggi, intanto i centralini sono aperti, 800 24 00 24, se volete anche su questo confronto magistratura, politica, eccetera. Salvini Pascale. Salvini Pascale, quello che volete. Anche perché c'è già un primo ospite. Noi in realtà oggi parleremo di questa vicenda che sembra così lontana, la Norvegia. Però Breivik, però, offre spunti anche per l'Italia. Sì. Ma ci arriveremo magari con calma. Intanto vogliamo salutare Riccardo Arena, che è direttore di Radio Carcere, radiocarcere.com. Io lo voglio sottolineare. Arena, buongiorno Riccardo, eccoci qua. Buongiorno Milano, buongiorno Giannino. Perché ci arriveremo alla vicenda di Breivik, eccetera. Ma forse da Riccardo Arena un parere anche, quello che scriveva ieri La Stampa, Oscar, delle statistiche molto molto dure. Quante sono le persone che... Cioè ogni anno 7.000 arrestati vengono giudicati innocenti nel nostro paese. 7.000. Tesi, 7.000. Ieri c'erano due belle pagine sulla stampa piene di dati, e ovviamente si offrivano anche le diverse voci coi magistrati che dicevano vabbè, ma se andate a vedere in realtà è una cifra fisiologica. Da che abbiamo introdotto nel nostro ordinamento la legge per il risarcimento a chi soffre errore giudiziario, abbiamo speso 630 milioni, quindi una cifra sufficientemente significativa, però le sofferenze vere che queste 7.000 persone, di cui alcuni casi sono mostruosi, eclatanti, insomma sono una cosa su cui riflettere. Bene, anche perché il carcere italiano non è esattamente una passeggiata di non salute. Non è una passeggiata. Arena. Neanche il processo. Esatto. Neanche il processo, certo. È un problema serio, anzi l'errore giudiziario è proprio la dimostrazione della patologia della nostra giustizia, di come funzioni male il nostro processo. Alcuni magistrati dicono ma una sentenza riformata in appello è fisiologico. No, non è fisiologico, perché quando un giudice in primo grado, ad esempio, accerta una colpevolezza e poi quella colpevolezza viene ribaltata in secondo grado, quella sentenza d'appello dimostra che c'è stato un errore fatto in precedenza, altro che fisiologico, quindi dimostra una patologia. Quindi insomma bisogna affrontare il tema a testa bassa, a mio avviso, ma nell'interesse di tutti i cittadini, credo. Sì. Tra l'altro io voglio ricordare, l'ho detto velocemente, ma Radio Carcere, vogliamo dire anche un po', poi su Radio Radicale, esatto. Quando Riccardo... Il martedì e giovedì alle 21, grazie. Martedì e giovedì alle 21, no, ma assolutamente giustificato e da sottolineare, radiocarcere.com. Tante persone accusate, arrestate, prosciolte, vengono ascoltate da Radio Carcere, proprio per dimostrare questo. E io temo sia uno di più di 7.000 gli errori giudiziari in Italia. Più di 7.000. Sapete quanti ce ne sfuggono? Per esempio Roberti oggi, non so se hai già letto l'intervista al Fatto Quotidiano, dice la prescrizione andrebbe fatta partire dal momento in cui almeno il magistrato ha cognizione di un'ipotesi di reato, non da quando il reato è stato commesso. E poi propone anche via l'appello doppione rispetto al primo grado, no? Salvo magari così in alcuni... Ma su questo non ha tutti i torti, cioè per quanto riguarda la prescrizione è pacifico che per determinati reati oggi la prescrizione decorre dalla data di commissione del reato, anche se a quella data io, Riccardo Arena, ero ignoto, non si sapeva che era Riccardo Arena il colpevole, no? Quindi è ovvio che il magistrato, il pubblico ministero ti dice ma non è giusto, io faccio decorrere la prescrizione da quando non so chi è la persona indagata, capito? Sì. Questo è il concetto, e non è sbagliato, però bisogna stare attenti, perché adesso loro stanno spingendo per far sì che la prescrizione venga sospesa sostanzialmente con il rinvio a giudizio, cioè quando inizia il processo, e poi lì si rimane appesi per quanto tempo? Capito, che potrebbe essere logico in un sistema in cui il processo dura 6 mesi, diventa il logico, irrazionale se il processo dura 8 anni. Voglio dire, attenzione a sospendere la prescrizione con le regole che ci sono oggi del processo penale. Dovremo in teoria non tanto ripensare alla prescrizione, ma dobbiamo ripensare interamente al processo penale, ed è questo l'errore che si sta facendo oggi. Si sta ragionando solo sulla prescrizione e non sull'intero processo penale. Sì. Roberti ad esempio però dice una cosa sensata quando dice che bisogna riformare l'appello. Noi oggi abbiamo un sistema processuale totalmente irrazionale, dove il primo grado è accusatorio, diciamo, tra virgolette, all'americana, vorrebbe esserlo, e un secondo grado inquisitorio. Che senso ha? Sì. Nessuno. Comunque lasciami dire che secondo me un conto è, o noi assumiamo l'idea che per alcuni, che come norma generale la prescrizione può scattare solo da quando comincia l'azione penale invece che dalla commissione del fatto, e questo posso anche capirlo, ma quello che non possiamo fare è assumere questo nuovo presupposto e in più bloccarla a ogni grado di giudizio, perché questo significa veramente, allora aboliamo la prescrizione, chiaro, il processo significa lo Stato fa quello che vuole, insomma è inutile, no, significa saltare da un eccesso all'altro. No, allora, cioè, poi volevo solo sottolineare le 7000 persone annue per errore giudiziario sono tra quelle che poi verranno riconosciute innocenti, quelle che sono state sottoposte a misure cautelari di libertà, cioè quelle arrestate o ai domiciliari, ecco, quindi la categoria è più ampia come dicevi tu, però queste in particolare sono 7000 che vengono arrestate e poi giudicate completamente innocenti, che insomma è una bella cifra. Allora noi tra poco 2 minuti di pubblicità, ma poi ci concentreremo anche, se volete chiamateci su questo, sui temi che stiamo affrontando all'800240024, mentre Oscar ti devo dire che ci sono 2 o 3 persone che su WhatsApp ci scrivono che si ricordano Gustavo. Vedi? Il martedì alle 12:30. Vedi. Ungherese. Vedi. Uno dice era in bianco e nero, non parlava. Anche per me era un ricordo tristissimo. No, ma fonderemo una colonia di noi perseguitati da mamme autoritarie, per così dire. Comunque parleremo tra poco insieme a Riccardo Arena, insieme anche a un giornalista norvegese, della vicenda Breivik. Vi ricordate? Colui che ha ucciso 76 persone. 77 per la verità, e che ha fatto causa allo Stato perché è trattato male in carcere. Sì, ma lì Oscar trattato male perché non aveva la PlayStation. Stiamo parlando di Norvegia, stiamo parlando di un altro ordinamento penitenziario in cui però incredibilmente chi è autore di una strage di massa così discriminata fa causa allo Stato. E però un giudice dà ragione. Bello. Sì, perché... ma poi perché? Perché non aveva la PlayStation nuova, il caffè non è caldo abbastanza. Però per l'ordinamento norvegese, anche nel caso di Breivik, questa la reclusione così stretta, senza contatto per i primi anni, è un supposto contro umanità ed è chiaro che molte persone, allora, tu capisci persone... la civiltà di un ordinamento simile, è chiaro però... che molti in Italia dicono ma come qui beh, anche in Norvegia forse qualcuno ha detto qui forse si esagera. Comunque ne parleremo tra poco perché è una storia norvegese ma è una storia in realtà che può essere calata, i due ordinamenti penitenziari a confronto, tra poco. 24 mattino. Cos'è, che cos'è la sigla? No, mi avete fatto tornare bambino. Ma davvero? Ma ragazzi, io sono felice, voi non vi rendete conto. Ma come se era una cosa tristissima. Ma cos'è che era Gustavo? Non c'è niente di meglio che ricordare la tristezza quando la vita si è un po' raddrizzata. Se permetti, almeno per una volta. Ma raccontaci un po'. Mamma, cosa non ti offendere. Però, cosa faceva sto Gustavo? Questo Gustavo era una linea tratteggiata di nero, un po' come l'uomo Lagostina. Ah, certo, ricordo, famosissimo. Ecco, solo che l'uomo Lagostina riusciva nelle sue imprese, quindi era divertente perché diceva se ti ricordi. Gustavo era uno sfigato. Gustavo era uno sfigato. Perché naturalmente, come potete immaginare, i cartoni animati sotto i regimi comunisti dell'est dovevano da una parte fare sorridere, ma dall'altra considerare impossibile per definizione ogni avventura fuori dall'orizzonte del controllo. Quindi, l'amarezza della vita. Non invidio chi ha dovuto essere autore, disegnatore di questi cartoni animati, una tristezza infinita. Va bene, ti abbiamo riportato un po' bambino. Vedi, questa sigletta mi ha veramente fatto... Meno male, oggi giorno della liberazione, per me la liberazione di questo ricordo. ricordo. Sono grato a voi. Liberato da Gustavo. Da Gustavo. Va bene, allora, dicevamo, nel luglio 2011, ricordate tutti Anders Breivik, colui che si presenta alle udienze facendo il saluto nazista, ragazzi. Vabbè. Coerente, dichiara la sua comunque, uccise 8 persone con un'autobomba, 69 all'isola di Utoya, campo estivo della gioventù laburista. E poi adesso scontando il carcere... ha fatto causa allo Stato perché viene trattato male in carcere. Naturalmente Breivik non ha mai detto tutto dalle sue convinzioni, lui difende un'idea di Europa pura e incorrotta razzialmente, contro l'ideologia che sta portando l'Europa a venir meno ai suoi fondamenti culturali, dice di essere un profeta e che molti lo seguiranno. Uno vede poi le urne e capisce che tutto sommato Breivik è... una follia, ma che parla di una cosa che c'è in Europa. Che c'è? Vedi il risultato austriaco lì. Eccolo, sapevo che volevi arrivare. Ma no, ma non confondo, sono due cose completamente diverse. Non sto dicendo che chi vota Lega è come Breivik, però che ci sia, questo sarà il dato politico. Vedrai con Brexit, vedrai. Noi abbiamo 2 anni di fronte a noi in cui questo elemento diventa dominante per cambiare l'identità europea, secondo me. Io lo temo, però. Comunque, insieme a Riccardo Arena, che è ancora con noi, direttore di Radio Carcere, ricordiamo radiocarcere.com, vogliamo salutare anche Simen Ekern, che è un giornalista e scrittore norvegese, che parla un ottimo italiano, però Simen, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Allora, partiamo appunto dalla Norvegia, perché non penso che tutti abbiano preso bene e abbiano reagito dicendo vabbè, ma insomma noi norvegesi abbiamo un grande rispetto anche dei detenuti, tanto da dire è giusto che Breivik che faccia causa allo Stato e abbia che un ragione. Giudice dia ragione. Beh, certo, sicuramente è stata una sorpresa, credo, per la maggior parte dei norvegesi, anche perché leggendo i giornali prima... di questa sentenza era chiaro che sembrava più una causa perché non bastava 2 PlayStation o il cibo non era buono, eccetera. Invece quando ha parlato il giudice è un fatto un po' più semplice, cioè l'isolamento di Breivik è troppo severo e non necessaria. E questo sì, è stato una... credo una sorpresa e c'è anche rabbia in Norvegia, anche paragonato credo alla prima sentenza. Adesso ci sono più giornali, più persone che dicono adesso basta, abbiamo esagerato, e poi ci sono quelli che ritengono no, invece bisogna tenere i principi soprattutto adesso. Perché ricordiamolo, quanto ha preso di carcere? Il massimo che in Norvegia è? In Norvegia 21 anni, però 21 con, anni. Con questa sentenza aggiunto che dice c'è un regime di sicurezza che dice dopo questi 21 anni, ogni 5 anni la Corte può decidere che non può uscire perché rimane un pericolo per la popolazione. E credo che la teoria più diffusa in Norvegia adesso è che lui non uscirà mai. Non uscirà mai. Comunque, insomma, 21 anni questo regime carcerario che non prevede di fatto l'ergastolo, anche se poi... Cioè, in Italia sarebbe stata travolta dalle polemiche una sentenza di queste proporzioni. No, certo, ma l'ergastolo non esiste comunque, e quindi non hanno potuto inventare. Lo spieghiamo solo ai nostri ascoltatori, perché... ogni paese ha civiltà giuridiche diverse. Io devo dire la verità, sono per quella norvegese, non per quella italiana. Naturalmente, detto così, adesso mi espone a una raffica di polemiche, eccetera. Vabbè, ma gli insulti lasciamoli perdere. Però qui, Riccardo Arena, c'è da capire dove è la misura in tutto questo. Se la misura, è chiaro che si ragiona se si vuole un po' per estremi, se la misura sia sbattere in carcere una persona anche preventivamente, questo capiamo, no. Se dall'altra parte ci dobbiamo stupire nel leggere quello che succede alla Germania con Breivik che fa addirittura causa e vince perché è in isolamento, dove si può mettere il limite dell'umanità a un certo punto? Ma il limite secondo me è abbastanza semplice, cioè qui la questione norvegese è la lezione dimenticata, e la lezione dimenticata è lo Stato di diritto. Le democrazie moderne tutte si fondano sul principio dello Stato di diritto, ovvero che significa? Significa che lo Stato deve rispettare la legge che emette, che approva, come qualsiasi altro cittadino. Quindi lo Stato, se viola la legge, secondo lo Stato di diritto, deve essere sanzionato. Questo è un principio cardine di ogni democrazia moderna, Norvegia eppure in Italia. In Italia, ad esempio, siamo all'opposto, non esiste lo Stato di diritto. La questione Breivik, nella sua estremità, per carità, però dimostra una cosa, che in Norvegia esiste lo Stato di diritto. Lo Stato è chiamato a rispondere delle proprie azioni. Ed è basilare questo, e prescinde dal caso concreto. A noi possiamo non essere, a me per esempio personalmente, io non sono d'accordo sul fatto che non ci sia l'ergastolo, io sono favorevole all'ergastolo, perché purtroppo so che ci sono persone che dal carcere devono uscire magari dopo 30 anni o devono accedere, come oggi è previsto in Italia nel nostro ordinamento, possono accedere a misure alternative dopo 30 anni, sì, piano piano, se lo meritano. Ma ecco, non sono d'accordo sul fatto che in Norvegia non esista l'ergastolo. Breivik merita l'ergastolo sicuramente, però ci ho posso contestare quel principio, ma non posso contestare il fatto che esista in Norvegia lo Stato di diritto. Anzi, dico il contrario, dico, da noi lo Stato di diritto esiste? No. E guardate, ed è un principio cardine della democrazia. Perché? Perché se lo Stato diventa impunito, è finita. Non c'è più democrazia, chiaro, e infatti da noi non c'è più democrazia. Però come rispondere? Per esempio, un ascoltatore via WhatsApp ci chiede: se questa è civiltà, vuol dire che il valore di quei poveri ragazzi non esiste? È Francesco che ci fa questa domanda, cioè quei poveri ragazzi uccisi, ovviamente. Però siamo sempre qui. Ci viene riproposto un problema sempre, tutte le volte che c'è una cosa. Cioè, l'opinione pubblica pensa che la giustizia abbia un fine retributivo, cioè ne hai ammazzati 78, non bastano 70 vite. Questa è un'idea, io posso rispettare il dolore, è un'idea, devo dire, da Antico Testamento della giustizia. La giustizia non è Non è vendetta, ecco, cioè, non lo è. Anzi, il progredire della giustizia, poi con l'illuminismo e così, e la teoria dei diritti naturali prima dell'illuminismo, è proprio una separazione successiva di gradi sempre più ampi rispetto all'idea dell'occhio per occhio, dente per dente. E questo però deve essere visto da noi come un elemento di civiltà, non come un'abdicazione di civiltà. Ah, guarda, è il principio che io utilizzo sempre per dire no alla pena di morte, no. Il primo principio, cioè la giustizia non è vendetta. Per cui io per esempio sono convinto da piccolo che fine pena mai sia una cosa che in un ordinamento democratico, liberale, eccetera, neanche di fronte al diritto più efferato, se pensiamo che la pena sia rieducativa, non possiamo dire fine pena mai. Però esiste anche un aspetto sanzionatorio. Ma certo, cioè, ma certo che esiste. Ci sono persone, non so se è il caso di Breivik, ma forse sì, persone che è giusto, ma perché costituiscono un pericolo che non rientrino mai più nella società. Ma perché in Norvegia, come ci ha ricordato il nostro ospite, l'ordinamento invece che fine pena mai prevede che scaduti i 22 anni c'è una commissione che ti valuta, ha valutato l'evoluzione, certo. Se è ancora pericolo resti dentro. Allora, questo significa non abdicare all'idea che ci deve essere un percorso educativo di reinserimento, quello che non avviene nelle carceri italiane, perché l'area non fa altro che documentare da anni, e per questo secondo me è un benemerito la realtà terribile delle carceri italiane. Certo. Ma infatti Simen, vuoi ricordarci, cioè allo scadere dei 21 anni ci sarà una commissione che potrebbe dire no, stai dentro altri 5 anni, questo... Altre 5 e poi altre 5 e poi altre 5. In teoria sì. Quindi in teoria un ergastolo esiste, se vogliamo, cioè se potrebbe, infatti, potrebbe essergli applicato di fatto. Sì, sì, infatti in pratica diventa così, anche se non è successo mai di quello che so io, però rimane, è vero che rimane questa idea anche che la pena deve avere un valore riabilitativo, anche se nel caso di Breivik ovviamente sembra allucinante pensare che lui cambierà in un modo non lo so, importante, utile per la società, è chiaro. Sì, dai primi segnali non sembra insomma, che sia redento. Assolutamente, ecco, no, diciamo. Però certo il principio forse deve rimanere così, e quindi uno deve anche dare la possibilità di migliorare, non lo so, è quello. È interessante però notare che per esempio il secondo giornale, il secondo più grande giornale in Norvegia, hanno scritto dei editoriali veramente arrabbiati, quindi dicono adesso basta con questa voglia di essere al di sopra della vendetta o di essere civile, almeno non chiamare questa cosa una violazione dei diritti umani di Breivik, anche se per esempio questa cosa che lui deve parlare tramite un vetro con l'avvocato, con tutti che vengono, tranne sua madre credo, e loro dicono va bene, magari uno può cambiare questo regime, cioè, pensa che loro sostengono che sia troppo duro questo regime, dovrebbero vedere il 41 bis, sì, esatto, no, 41 italiano bis. Lo considererebbero tortura nazista probabilmente, ecco. Ma infatti Arena, tra l'altro, sul 41 bis c'è un grande dibattito se sia certo, legittimo questo regime di detenzione considerato che viene utilizzato per certo, i mafiosi, viene sospeso il trattamento, cioè viene sospesa l'area trattamentale, viene sospeso il principio rieducativo della pena, di fatto è così, a fini di poi la cosa bella però è che lo sappiamo Arena che viene applicato soprattutto a quelli condannati per mafia, dove è importante un sì, è importante un isolamento per alcune di queste persone. Ma assolutamente sì, ma il 41 bis allora dimostra il fallimento del carcere normale, ma come, il carcere dovrebbe essere isolamento per definizione e invece un colabrodo, entrano telefonini, la gente scappa scavalcando un muro e tu che fai invece di risolvere il problema? Crei un altro carcere, il 41 bis. Il 41 bis è la dimostrazione del fallimento del carcere normale. Non so se mi spiego. No, ma questo però, è vero, cioè già il carcere normale dovrebbe bastare per risolvere. Hai capito? Cioè, è un assurdo, è perché, però è un assurdo giustificato, perché tu dal 41 bis esci o da morto o se parli. E per questo è tortura democratica. Ma io insisto, da noi lo Stato di diritto non c'è, e il nostro scandalo, lo scandalo di noi italiani, è direttamente proporzionato alla nostra inciviltà. Aspettate, noi ormai siamo assuefatti. Vi faccio riflettere su un tema che ci rifà tornare alle polemiche di questi giorni, perché a un certo punto Davigo ha detto, a proposito dell'innocenza, a proposito della famosa, che l'innocenza in realtà, di cui tanto ci riempiamo la bocca noi giornalisti, gli avvocati, è un fatto interno al processo, queste sono le parole, e quindi è come un fatto interno al processo, non c'entra nulla con i rapporti sociali eccetera eccetera. Io per esempio sono radicalmente opposto a questa tesi, l'innocenza è un diritto, all'innocenza è un diritto naturale, non è affatto un fatto interno al processo. Per esempio usare il 41 bis ai fini di custodia cautelare, e cioè te lo becchi finché non ti autoaccusi, guarda, mi dispiace, non c'è reato, fattispecie che a mio giudizio lo giustifichi, perché lo stravolgimento di che cos'è un ordinamento giudiziario è lo stato etico inquisitorio che pretende di sapere già tutto di te, ti dice, oh, tu non parli con nessuno, con tuo... stai lì, muto, firma, sei colpevole. Purtroppo l'immagine che ci offri è radicata nella realtà. È così, purtroppo ci chiama, è così. Ci il intanto... film di sordi detenuti in attesa del giudizio, che casualmente ancora è attuale. Sì, che casualmente, o non so se casualmente, Sky ha mandato 2 giorni fa. Guarda caso, no, ma guarda che è vero, perché fanno poi queste, prevedono queste decisioni. Ci sono state le polemiche, eccetera. Fanno bene, secondo me. L'altro giorno giravo e c'era detenuto in attesa del giudizio. Ci chiama Edmondo da Milano. Buongiorno, Edmondo. Buongiorno. Sì, la sentiamo un po' male. Mi sente? Un po' meglio adesso. Ecco, allora, le spiego. Io sono stato coinvolto in una indagine per turbativa d'asta. Sì. E vi posso assicurare che è 11 anni che è avanti. Ho avuto la vita professionalmente rovinata, per cui parlare di non prescrizione mi spaventa. E i giudici hanno fatto di tutto, PM eccetera, per allungare i tempi. Per cui un'udienza veniva rimandata a passare un anno. Hanno indagato un anno contro ignoti per non farci gli avvisi di garanzia. Scusate, sono molto emozionato. Ah, no. Veramente, credetemi. Ma capisco. All'inizio cercavo di spiegare tutto quello che dicevo per spiegare, veniva utilizzato per rettificare il capo d'accusa, cioè toglievano le accuse inesistenti e se ne inventavano altre. Ma perché lei dice i giudici hanno volontariamente allungato? Perché, secondo lei? Cioè, qual è la ratio di tutto ciò? Una cosa banale: ti mettono ai domiciliari, non ti chiamano, perché se ti chiamano tu ti puoi avvalere della facoltà di non rispondere, per cui devi chiedere tu di essere ascoltato, e se non lo chiedi ti lasciano i domiciliari tutto il tempo che riescono. E questo è un esempio, uno ti mette i domiciliari, ti interroga quanto prima. Sì, certo. E quindi intanto ovviamente arriva la prescrizione. Non chiedo a voi chiaramente che lo accettiate, ma io dopo 60 giorni domiciliari, visto che non raccontavo quello che loro si erano immaginati, sono stato messo in carcere per 20 giorni. Questa si chiama tortura. Tanto che il Tribunale della Libertà ha detto non c'è motivo di aggravamento della misura cautelare. Stiamo attenti quando si parla di prescrizioni, i processi non finiranno mai. Se non c'è la prescrizione, i processi non finiranno mai. Edmondo, si fermi lì, anche perché purtroppo il tempo è finito. Poi, insomma, entrare nel suo caso non lo conosciamo, quindi prendiamo solo la sua testimonianza e così come spunto di riflessione, però non sappiamo i termini ben precisi. Ci dobbiamo fermare ringraziando Riccardo Arena e ringraziando Simen Eckern che sono stati con noi. E anche gli ascoltatori, e lo sapevo, sì. Tanti che mi chiedono, ah beh, tu allora lasceresti libri gli stupratori. Ragazzi, ragioniamo. Io, ragazzi, come vedete, questa volta non ho alzato la voce, non mi scaldo. Ma lo so, però bisogna ragionare con tutti, anche con chi è convinto che la giustizia sia a mettere al muro la gente. Bisogna ragionare. Va bene, oggi va il 25 bene. Aprile bisogna ragionare. Ragioniamo anche il 26 se possibile. Esattamente. Anche il 24. E poi abbiamo liberato le avventure di Gustavo. Ma infatti, ha liberato le avventure di Gustavo. Rimettigli, dai, la sigla, che così è contento. Lo riliberiamo, sì, e ci fermiamo qui. A domani.